Nes je moderno šuo dir zuba Facebook E con te ho chattato Da quando mi hai contattato Io mi ero già innamorato Amore mio Sei la mia anima gemella Sei la più bella Sei la mia stella Da quando mi hai contattato Io mi ero già innamorato Amore mio Siamo conosciuti su Facebook E con te ho chattato Da quando mi hai contattato Io mi ero già innamorato Amore mio Sei la mia anima gemella Sei la più bella Sei la mia stella Da quando mi hai contattato Io mi ero già E mi chiedevo dentro me Ma che stiamo qui a fare? Qui ci stiamo a innamorare Innamorare E in particolare Io ti ho chiesto il tuo numero Quello di cigiulare Per poterti chiamare Per poterci sentire Oh, vega sogno io, sono Paolo, Zallarissimo 86. Tu sei Stellina Tamarissima 91. Sì, sono io, sono Stellina Tamarissima, e chi può? Oh, vedi che la mi incontrano, incontriamo stasera un miraggio, capè? Senza che fa cazzi, capo dice che viene un dei presenti. Mamma, così grezzissimo! Amo, ti giuro che ti amo proprio! Onestamente mi chiamo nuovo Fabrizio Coroni di Cusenza. Oh, oh, che chiude, ne vediamo, bimba! Amore mio, e mo che ci siamo incontrati, dove vuoi invitata a cena? Era una bocca, e proprio mi pure a rosiddarte. Eh sì, sì, e mo che ci siamo, pigliamo pure una bottiglia di prosecco, eh? Ma che ti ha visto, abbreatore? O sai che ti dico? Ma vada a regioppa, tu, una bocca, rosiddarte, e pure lo faccio a bocca.